siamo cara, qui soli in libertà. Da me che vuoi? Son vincitore, ed or voglio la mano. Ma di lungi da me, ferma villano. Cognato, ho vinto, ho vinto. Tu non sai la battaglia passata, che con te, che allegrezza. Cosa dici costui? Rosina, io non l'intendo. Me stessa in quest'istante io non comprendo.